Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti. La Juventus, la prima Juventus ufficiale nel segno di Amauri. Gli ormai ex interisti Maicon e Balotelli che battono casse, fanno un po' gli esosi presso i nuovi proprietari. Il colpo del Real Madrid che prende Khedira, secondo me eccellente giocatore per Mourinho, oppure Schwarzer che si ritira dalla 50 km di marcia e forse dall'atletica perché ha detto non sono più capace di soffrire. Tutti argomenti all'ordine del giorno, se volete ne parliamo con le vostre telefonate, 800 24 00 24 è il numero verde, ma io volevo partire da un altro argomento. Dunque, ieri quella del Milan con 5 bande larghissime invece delle classiche 7. Poi ci sono quelle di Inter e Juventus con il nuovo Family Look, penso che si dica così, della Nike, Family Look dell'anno, che propone le strisce dai bordi ondulati, sfumati, zigrinati, non so come si dica. Una cosa che secondo me dà mal di testa, non mi piacciono. Ai mondiali c'erano quelle eco-friendly, nate dal riciclo delle bottiglie di plastica. Questi sono i costumi del calcio, che sono parte integrante del gioco e dello spettacolo. Se vado a vedere una grande opera lirica, i costumi fanno schifo, dal loggione piovono fischi che più duri di quelli del terzo anello di San Siro. Ed è per questo, magari mi correggerà subito se sbaglio, è per questo che vorrei affrontare l'argomento con Piero Maranghi, che tra le altre cose è direttore di Classica Channel, il canale della musica classica e dell'opera. Buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio a voi, sono contento di essere ospite di questa trasmissione che ascolto sempre. Reciproco, piacere è tutto mio. Non solo quello che ho detto, ma anche grande appassionato di calcio e di magliette. Grande appassionato di calcio, sono completamente d'accordo con quello che ha detto. Cioè, queste operazioni sono al limite dell'orrore, secondo me. C'è dagli anni, direi dall'inizio degli anni 90, una degenerazione delle maglie che prima erano bellissime e che poi forse col nostro mondiale, che è stato forse anche per questo il mondiale più brutto che io abbia visto. Sì, è lì che comincia la rivoluzione culturale della maglietta, secondo lei? Secondo me direi di sì, o perlomeno lì l'abbiamo vista e percepita così chiaramente. Io penso alla squadra che ha vinto, la Germania. La Germania del 90 aveva questa maglia che avevano dei tocchi di portoricanismo, c'erano queste bande al centro della maglia e solo 4 anni prima, nell'86, il mondiale strepitoso. Sì, per molti motivi. Sì, per molti motivi, Maradona il primo. Sì. Nell'86 la Germania giocò la finale sempre con l'Argentina, con una maglia verde bellissima. E quella fu anche una finale, tra l'altro, molto divertente, 3-2. Certo, lo fu. È cambiato lì proprio, secondo me. Ma anche calcisticamente, secondo me. Il mondiale dell'86 è quello che segna il confine tra un certo calcio e un altro, ma senza per questo fare giudizi di valore o di svalore, semplicemente due cose diverse. Secondo me la linea di confine è stata proprio quella del mondiale 86. Lei mi dice, giustamente, non ci avevo mai riflettuto, anche per le magliette. Quelle dell'86 erano ancora bellissime, quelle del 90 lo sono diventate un po' meno. Un po' meno, e poi siamo andati avanti fino alla follia del Messico. Sì. Ci sono però delle squadre che sono più resistenti. Sì. Tipo l'Argentina è sempre diciamo uguale a se stessa, o il Perù, che ha sempre una bella maglia. Sì. Anche il Portogallo abbastanza. Argentina qui mi tocca sul vivo, viste le mie passioni per questa maglia e per questa nazionale, però quando ha il pantaloncino nero, perché quando ce l'ha azzurro, come ho visto agli ultimi mondiali, era una roba da coprirsi gli occhi, da mandare una lettera alla Federcalcio Argentina. Secondo me le maglie più belle del calcio mondiale: Argentina, Boca Juniors e Ajax, almeno per i miei gusti. Sì, Boca molto bella. E l'Ajax, sono abbastanza. Io poi sono un tifoso viola, per cui è una debolezza per la mia. Sì, Fiorentina ha avuto maglie varie. Maglie orrende, maglie bellissime. Però per trovare le maglie belle della Fiorentina bisogna andare un po' indietro. Perché quando sono arrivati gli sponsor, la squadra insomma ha sofferto. Sì, ne ha fatte alcune improponibili. Io mi ricordo quella del nostro secondo posto dell'82, il famoso scudetto meglio secondi che ladri della Juventus. Sì. È una maglia spaventosa. Vediamo se intervengono gli ascoltatori, ma credo di sì. 800240024, il numero verde. Ieri sono rimasto colpito, l'ho vista per la prima volta da questa sedia, da questi schermi, perché su Sky passavano appunto le immagini della presentazione della maglia, nuova maglia del Milan. Si ritorna alla banda larga, non in senso televisivo radiofonico, ma in senso di striscia orizzontale molto larga. 5, mi corregga se sbaglio, sono 5 le strisce della nuova maglia del Milan contro le classiche 7 delle squadre che Juventus, Milan, Inter, che hanno una maglia a righe per l'appunto. Sì, di solito sono 7. Io questa non l'ho ancora vista, diciamo che mi trova scettico, però solo sentirne parlare. Non è male, poi... Non è male. Non è male, non è male. Io sono più per la striscia sottile. Più sottile. Poi il Milan, insomma, ha anche la storia della maglia del Milan è una bella storia, perché questa cosa del rosso e del nero, che è l'unione tra il diavolo e l'inferno, per fare paura agli avversari, insomma, è affascinante. La vedo meglio con le strisce fini, però. Comunque non sbagliavo dicendo che anche se c'è una grande opera lirica, i costumi non sono all'altezza, il pubblico fischia. Beh, diciamo che i costumi servono allo spettacolo, il calcio è un grande spettacolo e diciamo che aiutano sicuramente. Certo. Pensiamo poi, non so, ci sono dei casi, la maglia dell'Olanda era stupenda. Meravigliosa. E l'Olanda giocava un calcio che tutti abbiamo amato. Sì. Certo, anche lì volendo essere precisi col pantaloncino bianco, perché la divisa bianco della finale tutta arancione mi sembrava un po' troppo ANAS. Sì, no, questa no, ma io non parlo di questa Olanda, io parlo dell'Olanda, quella degli anni 70. Con un arancione questa leggermente più stinto. Sì, sì, e con quelle ghighine, no, meraviglia. Io ho un ascoltatore, ho vari ascoltatori peraltro che scrivono su questo argomento via SMS. La maglia gialla e i pantaloncini blu della Juve anni 80 era bella, secondo Walter. La maglia oro della Juve 2 anni fa era stupenda addirittura, seguita dall'orrenda grigia dell'anno scorso, scrive Nicola. De gustibus. Con la banda larga il Milan di Zaccheroni vince lo scudetto, Andrea Daffano. Questa è vera storia. Questa è vera. È stato uno scudetto divertente, devo dire. Molto divertente. Sì. Bella la maglia dell'Udinese di Zico, banda centrale nera. Me la ricordo. Com'è? Insomma, non bellissima, no. Era bella l'Udinese, però, perché oltre a Zico c'erano dei campioni. E era bello il calcio italiano. Era bellissimo. Caro dottor Marenghi, era bello il calcio italiano perché l'Udinese aveva Zico, ma era solo... insomma, un'ipotesi, poi c'era la Fiorentina di Socrate, se lei si ricorda bene, sì, eccetera. È inutile stare a fare Bertone e Passarella freschi di titolo mondiale con l'Argentina. Posso chiedere altri 2 minuti dopo il traffico? Sì. Perché vorrei parlare anche di un'altra cosa, maglia dei mondiali, argomento di questi mondiali, argomento che non abbiamo toccato perché abbiamo visto alcune cose particolare. Ovviamente De Gustibus sulle magliette, Fede d'Alessandria, dimenticate la maglia Celtic, ma definire bene le maglie dell'86, ma non ricordate quella di riserva della Germania, verde, si vede di no, verdino, scrive, ne parlavamo prima, a me piaceva, così come al dottor Piero Marenghi, nostro ospite di oggi, cui volevo parlare di maglie mondiali. Com'è stato questo mondiale? Abbiamo parlato di quello dell'86, quello appena concluso, dal punto di vista dei costumi com'era? Dimenticabile, ma non ho visto cose poi così terribili neanche, abbastanza nella tradizione degli ultimi anni, forse le cose più brutte le abbiamo già viste. Sì, quella divisa interamente nera della Germania non era, ma era molto elegante. Quella della Germania non era, ma la Germania direi che è quella che è capace di stupirci nel bene e nel male, più delle altre, forse perché anche c'è il cattivo gusto dei tedeschi, sì. E a questo si aggiunge poi una maglia bianca per cui possono fare qualsiasi cosa. Sì, sì, sì, certamente. La Germania è stata, io trovo che la Germania degli anni 70 era bellissima. Era bellissima. Quella la sua semplicità assoluta. Per l'appunto quella di Italia 90 non mi piaceva neanche un po', con quella Italia 90 quella orrenda, sì. D'altra parte, le maglie erano un oggetto irraggiungibile, no? Come il cappello di Indiana Jones o il giubbotto di pelle di Fonzi nei film. Oggi si può avere tutto ed è anche per sì. quello che cambia a velocità così vorticosa. Sì. Poi siccome devono venderle, sono costretti a cambiarle ogni anno. Sì. È un po' come la tecnologia, devono fare un televisore al giorno perché così quello che abbiamo appena comprato lo dobbiamo dismettere. Allora lo stesso avviene con le maglie. E dunque diventa difficile poi indovinare la collezione tutti gli anni. Quanto ai mondiali, invece, per chiudere, io ho trovato che la maglietta in questa versione più bella, più elegante, la squadra non era all'altezza della maglietta, fosse quella dell'Inghilterra. Si dice che appunto Fabio Capello abbia messo del suo nel disegnare questa maglia. Questa divisa interamente bianca con quel numero rosso, io l'ho trovata meravigliosa. Una bellissima maglia. L'Inghilterra, tra l'altro, ha spesso delle belle maglie. Sì. E questa sì, era una bella maglia, peccato per loro perché non ha portato molta fortuna. Io la ringrazio, è stato un piacere. Grazie a voi. Torneremo a disturbarla. Buon lavoro. Buon lavoro a Piero Maranghi, direttore di Classica Channel, grande appassionato, come avete sentito, di magliette. Adesso io però voglio cominciare a parlare con gli ascoltatori, che a giudicare dagli SMS questo argomento lo gradiscono molto più della prima esibizione della Juventus, come dicevo, di Balotelli e Maicon, che chiedono ai nuovi proprietari inglesi e spagnoli un sacco di soldi, soprattutto Maicon, ho sentito girare delle cifre che mi sembrano fuori dal mondo. È il momento naturalmente dei procuratori, c'è quello di Burdisso che, o Hidalgo, che dice che il giocatore vorrebbe giocare nella Roma, intanto sta allenando con l'Inter. La notizia di questa mattina, la ripeto, dagli europei di atletica, è uno Schwarzer che l'altro giorno, insomma, ci aveva un po' illuso con una medaglia d'argento in una specialità non so come la 20 km, che oggi si è ritirato dalla 50 km e ha detto una frase molto interessante che adesso vi leggo. Una gara così con un minimo di condizione dovrei dominarla, ha detto. Non so cosa dire. È uno sport in cui devi essere umile e avere voglia di spaccare il mondo. Nella 50 km, se non sei al 100%, non riesci a finire. Oggi non stavo in piedi, non è un problema fisico, è la voglia di fare fatica. Ho la sensazione che il mio fisico fa di tutto per non fare fatica. Sono 2 anni che non riesco a gioire, non lo so, devo pensarci su, ha detto Schwarzer. Gennaro, Paolo, Claudio, 3 ascoltatori di oggi. Gennaro, buongiorno, provincia di Napoli. Buongiorno, Senta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Com'è la maglietta del Napoli? Ah? La maglietta del Napoli di quest'anno? No, io no, veramente volevo parlare della... Parli di quello che vuole. Della Maviola. Sì, ma va, argomento inedito. A parte che sono tipo del Napoli, ma ho chiesto questo per... Sì. Quanto riguarda la Maviola, sono d'accordo con lei, nel senso che era... Io la Maviola in campo non la vorrei, per un semplice fatto, perché vorrei gli arbitri più meritevoli, più di un certo... mentalmente liberi da ogni impegno di sudditanza. E poi per quanto riguarda il signor Aldo Biscardi, ha perso la sua credibilità, nel senso che lui si combatte da 30 anni per la Maviola, poi è arrivato un signor Moggi che l'ha fatto modificare la Maviola a suo piacimento, e tutto questo è una cosa come si dice delle terre, nel senso che poi non c'ha più credibilità. Sì. E penso pure che la Serie abbia anche allontanato per questo, ma... e sia andato in un'altra emittente. Sì. Dove ha residuato tutti i residuati bellici come lui. Certo. E come Moggi. Ma si può sempre questo... come dico tutte le volte c'è il telecomando, quindi se la Maviola in campo sarebbe per tutti, è un discorso che stiamo facendo. Io sono contrario alla Maviola. Io sono contrario anch'io, anche alla pentola a pressione, come diceva Massimo Boldi in un famoso sketch di moltissimi anni fa. Quanto a Biscardi, guardi, faccio sentire di nuovo questo. Dammi la Maviola, dammi la Maviola. E questo è lui che canta, questo è lui che canta, Aldo Biscardi, i nostri microfoni l'altro giorno. Quanto a questo argomento, abbiamo trattato un po' troppo, secondo me, nell'ultima settimana, però continuiamo a farlo se vi fa piacere. Siamo qui per raccogliere, anche e soprattutto per raccogliere le vostre opinioni. Tanto la Gazzetta ha raccolto quella di Rivera, che mi ha lasciato un po' stupito. Maviola in campo, io la farei vedere sul mega schermo, ha spiegato un po' forzando, forse per paradosso Gianni Rivera, che comunque si dice favorevole a questo strumento, ma ve li immaginate sul maxi schermo e poi manca solo la croce cui appendere l'arbitro dentro lo stadio, ci fosse la Maviola sul maxi schermo. Paolo da Macerata, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo parlare invece delle magliette, perché volentieri, è un argomento a me molto caro, perché io sin da quando sono piccolo, io, grazie ad un regalo, mi fu regalata la maglietta del Barcellona, che all'epoca era verde, con inserti blaugrana, e rimasi innamorato, e per me è una passione, quindi cerco sempre di trovarle. Di quale? Recuperarle. Quella del? Mi scusi, mi Barcellona sono dell'anno che vinse la Coppa delle Barcellona, Coppe. Secondo me, guardi, dico, secondo me era meravigliosa quella no, quella, la prima maglia, quella azulgrana, ma quella del Barcellona. No, ovvio, quella classica è sì, la migliore, assolutamente. Non voglio andare indietro fino a Cruyff and Eskens, al Barcellona degli olandesi, però. Quei calzettoni con le strisce orizzontali. Esatto, azulgrana era meravigliosa. Io sono troppo giovane per ricordarlo, perché sono vecchio. Però, no, beh, ci mancherebbe. Però le ho viste, sì, quelle mi piacciono. Però il problema forse è che uno, con il tipo di cromatismo che ci abbiamo quando io sono juventino, oppure anche la maceratese, sono maglie che hanno le strisce, uno non è che può inventarsi più di tanto, quello è. Però quest'anno vede si sono inventati quella, per esempio, non so come la pensate voi. Io vedo dai, è orribile quella cosa della striscia zigrinata. Questa è terrificante, secondo me. Ma anche quella dell'Inter, io vedo messaggi di tifosi dell'Inter che dicono meno bruttissima, secondo brutta, me. Brutta. No, con tutto il rispetto, ci mancherebbe altro, perché magari dietro c'è anche un discorso di pesante. No, lo so, però, ma certamente è un discorso, voglio dire, però come giudichiamo le collezioni degli stilisti, possiamo diciamo questo è bello, quello è meno bello, a me le maglie di quest'anno con quelle strisce così non piacciono, così come erano belle quelle dell'anno scorso, ad esempio dell'Inter, sto vedendo immagini dell'anno passato, è una maglia molto classica, certamente con grande appeal, quella di quest'anno non mi piace. Dica. Ecco, dicevo, il punto forse è che attualmente questi sponsor tecnici tentano di incentivare continuamente il merchandising, rinnovando. Secondo me un modo giusto per incentivare il merchandising sarebbe favorire la personalizzazione, perché questo l'ho notato in Germania, succede molto spesso. Io ho già degli amici nel North Rhine-Westfalen, cioè a nord-ovest, dove c'è il Borussia Dortmund, per intenderci. C'hanno tutti ogni anno maglie originali personalizzate come vogliono, eccetera. E poi soprattutto hanno dei prezzi molto più bassi. Una maglia originale dell'Adidas o della Nike, o quello che vogliamo costa meno che in Italia. Quindi quanto costa? Sarebbe quello del Samica, quanto costa? Detto voi diverse volte. Samica, quanto costa? Dovrebbe essere intorno ai 40 euro. Quindi 40 euro si può fare. Sono 70, cominciano ad essere 70-80, magari si può fare di meno. 70-80 per solo la maglietta. Lì con, penso, me l'hanno riportata quest'anno, quella della Germania bianca, che mi piace molto. Bianca con numero 3 di Friedrich. È veramente molto, molto bella. Ecco, io non. E è personale, cioè il numero è originale dell'Adidas, i nomi sono originali dell'Adidas, le lettere, eccetera. Quindi io credo che forse il discorso sarebbe da fare in Italia nell'incentivare i punti vendita a vendere prodotto che però sia più personalizzato, più qua fluido, siamo un po' più. Sì, ma qua siamo un po' arretrati nella cultura del merchandising, siamo insomma qui le maglie ufficiali a prezzi molto elevati convivono con connivenza di tutti, con le maglie taroccate da 5 euro, 10 euro, non so quanto costino. Quindi se uno si vuole prendere una maglietta e non vuole spendere un occhio dalla testa, che dice tanto la uso per giocare a calcetto con gli amici, magari va a prendere quella taroccata. Se finché si permette questo fenomeno, quindi non c'è una seria cultura di merchandising, diventa difficile. Uffa le maglie, giochino pure in mutanda da sbarco, ma giochino bene. Balotelli alla fine resterà, ma è solo una mia pallida speranza. Antonella da Catania, piacerebbe magari giocasse in mutande. No, il discorso delle magliette secondo me è interessante. Balotelli non resterà, andrà al Manchester City, è già ufficiale praticamente, mancano le pubblicazioni di matrimonio sui siti dei vari club, però Balotelli è del City, non resta. Alberto Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, maglie meglio quelle di una volta, sicuramente. Quelle che non si potevano avere. Esattamente. No, da interista ci tengo a festeggiare la mia tripletta, visto che se ne parla sempre meno, sembra che la squadra che ha vinto di meno in assoluto. Possiamo mica parlare tutti i giorni, però Alberto. Portano, io non so, vedo campagne promozionali di abbonamenti televisivi, la prima immagine non è mai della campionessa d'Italia, per esempio. Trovo che sia sbagliato, insomma, un po' dislessico come messaggio. Comunque, da interista, per esempio, ho visto la presentazione della Nike, o Nike, o come diavolo si chiama. Sì. Con le sue nuove magliette non mi piacciono assolutamente, sia per quella cosa zegrinata, quella... le motivazioni facevano ridere, cioè se è vero che sono tre titoli non è riportato da nessuna parte, nemmeno a livello di cromatico, no? Esatto, cioè non c'è, per esempio ho visto una maglia, penso da amichevole, dalla Juventus, ha un bellissimo tricolore centrale che arriva fino al basso ventre, sarebbe stata più indicata quella, per esempio, sì. Tanto per ricordare che siamo campioni d'Italia da 5 anni. Mi ricordo nelle sere dei mondiali che chiamò un ascoltatore molto simpatico di Caserta, se non ricordo male, che disse che criticò duramente lo stemma della nazionale italiana. Mi diceva: quelle stelle sono quasi invisibili, le voglio belle grosse, devono vedersi le stelle, magari anche sul petto, facciamole grosse quelle quattro stelline che simboleggiano i nostri quattro mondiali. No, ma detto questo, insomma, io capisco che insomma, questo triplete lo si voglia vedere anche sulle nuove magliette che potevano essere almeno all'altezza della situazione, insomma. Non lo sono, secondo me. Andrea da Verona scrive: la maglia della Francia ai mondiali era bellissima, ma un po' troppo high tech. Poi il mio giudizio in questo caso è condizionato da quanto era brutto invece la squadra. West Ham e Aston Villa, le mie maglie preferite, anche se quelle di qualche anno fa erano meglio. Elia da Udine, quindi maglia ufficiale del Newcastle personalizzata con nome taglia M, euro 38, scrive un ascoltatore. Stefano da Prato cosa dice invece? Salve. Salve. Io chiamavo invece per quanto riguarda la gara di marcia di 50 km che ho visto stamattina. Sì. E ho sentito poco fa il commento di Schwarzer. Esatto. Francamente, come ho sentito anch'io poi come ha fatto lui su se stesso, quello che mi fa dispiacere è che un ragazzo così giovane e che ha dimostrato, nonostante si sia fermato per bisogni fisiologici durante la gara e sia rientrato sui primi e che poi abbia avuto il problema fisico sulla tua coscia, insomma mi fa dispiacere sentirlo parlare così, perché un ragazzo così giovane penso che abbia da chiedere molto di più dalla vita, visto che la vita gli ha offerto questa opportunità di essere un atleta. Però fa un discorso, Stefano, fa un discorso molto onesto Schwarzer, che aggiunge: quando va in gara sembra tutto scontato, per me e per gli altri se arrivo secondo è una delusione, sulle distanze corte riesco a stringere i denti e i tempi li faccio, ma nella 50 km è diverso, ha detto delle altre cose. Mi è sembrata un'analisi molto onesta, soprattutto fatta così a caldo, cioè dice: devo capire se ho ancora voglia di, proprio per quello che lei sta dicendo, di così tanta sofferenza, perché nella 50 km soprattutto senza la voglia di quella sofferenza di strada non ne fai, ha detto Schwarzer. Quindi mi è sembrato in realtà un discorso di un'onestà rara per uno sportivo, soprattutto dopo una delusione così, così forte. Quindi vediamo. Sicuramente sarebbe un dispiacere se abbandonasse, perché il ragazzo è un atleta vero. Sì. E qui, siccome il nostro paese ha bisogno anche di queste persone, e francamente è una rarità trovare un atleta così, e vorrei che lui lo sapesse, e che gli farebbe bene probabilmente anche la psiche sua, e che lui spingesse dentro e ritrovasse se stesso la voglia di andare avanti, perché questo sarebbe un gran bene. Lo so, però ci deve pensare su, come ha detto lui, deve capire, deve guardarsi dentro e capire se quella voglia ce l'ha ancora. Se gli è stato chiesto: ti diverti ancora? Lui ha detto no, quindi è stato anche in questo estremamente onesto Alex Schwarzer. Alex da Udine, buongiorno. Ah, salve, un piacere parlare con lei. Reciproco. Volevo parlare di magliette. Specialmente, intanto vorrei fare una precisazione, che la maglietta dell'Udinese di Zico era molto bella, secondo me, forse una di parte, però no, anche a me piaceva molto. Una semplicità. Quella con la banda centrale nera. La banda centrale. Perfetto, era bella, perfetto, era molto bella. Poi altre due di cui sono particolarmente innamorato. Una è la prima maglia, penso, che mi comprai, è quella del Manchester United di quando Cantona prese a calci quel tifoso, sì, quella nera con la scritta Sharp gialla in mezzo, sì, con il colletto tirato su, è proprio bellissima. Io ce l'ho, sì, con le maniche corte, è molto molto molto bella. Quella quindi la seconda maglia. La seconda, sì, maglia. Sì, sì, è la seconda maglia del Manchester. Mm. E poi insomma, io sono affezionato a quella dell'Italia 90 dell'Italia, anche se lì, come avete detto prima, forse quel bellissima. Mondiale segnò una nuova era, però ho la maglia, quella maglia ce l'ho io con il numero 10 e con scritto Baggio dietro, per me rimane bellissimo, perché era semplice, ma era di quei, ovviamente era di un tessuto già nuovo, no? Di, sì, quelli sintetici, sì, sì, fino, sì, invece all'86 erano state di cotone, sì, ecco, sì, proprio. Quelle che non si potevano ancora avere. Quelle erano le magliette fino all'86, erano quelle che non si potevano ancora avere. Quelli erano dei sogni che quando si riusciva a comprarle o ad averle in qualche modo erano soddisfazioni. Tutto qua. Grazie Alex. Grazie. È stato un piacere. Ettore da Brescia, poi parliamo un po' d'altro. Dica. Buongiorno. Innanzitutto, buongiorno, complimenti per l'argomento trattato. Veramente, primo ma carino, gentilmente rilassato. Sì, ma sa, io oggi sinceramente in moviola tutta la settimana che ne parlo, quindi non ne ho più tantissima voglia. Di mercato non succede niente, perché quelli che si spostano adesso vanno a battere cassa. Vogliamo parlare di Juventus, di Shamrock Rovers Juventus, mi sembra tanto, quindi, esatto. quindi ma poi è un argomento che a me piace molto, quindi lo tratto volentieri. Infatti ha notato quante telefonate, beh, ci sono sempre le telefonate, però vedo che è un argomento che piace. Io difatti volevo invece parlare della maglietta della mia squadra del cuore, che adesso parlo di parte, però secondo me rimane una delle magliette più belle ed era stata anche votata, non vorrei sbagliarmi, tempo fa in Inghilterra come una delle migliori maglie. Ah sì? Ed è quella del Brescia. Un grande classico. Quella azzurra. Un grande, ecco, classico. Con la V bianca, che era appunto il simbolo della rondine, visto che il Brescia vengono chiamate, sì, le rondinelle. Tra l'altro è una anche di quelle che cambiano meno spesso, almeno come grafica e come disegno, perché ricordo prima il Brescia giocò diverse stagioni una maglietta azzurra con i pantaloncini bianchi. Bravo. E poi però tornò il segno della rondine su queste casacche, ed è anche una delle più immutabili. Esatto, con Corioni, le dico la verità, da quando è arrivato Corioni è ritornata la V centrale bianca, se non vorrei sbagliare, però mi sembra di ricordarmi bene, e da allora non è più mancata, con un simbolino in parte della Leonessa, sì, oro a rilievo, molto bella, sì, io la ritengo una delle... Sì, come sì, un grande classico. Bravo, stavo per dire la stessa cosa, come quella della Sampdoria, un grande classico, insomma, è un segno distintivo che, come il blu cerchiato della Sampdoria, anche il V sulla maglietta del Brescia, che io preferisco però con, anche qui già la fissa, con pantaloncino bianco e non tutta blu, perché il completino tutto intero non mi piace molto, salvo alcune rare eccezioni. Dunque, però adesso è il momento di... Poi continuiamo, quando volete, di questo argomento, se non oggi, anche la prossima settimana, aspettiamo anche la presentazione di altre nuove magliette. Resto comunque dell'idea che Juventus e Inter quest'anno non abbiano, per tornare al discorso originario dei costumi dell'opera, non abbiano un gran costume in questa edizione. Adesso però voglio parlare, perché anche la cronaca lo impone, ed è una cronaca che riguarda tutti i giorni di quest'estate, almeno quella dei motori, perché c'è il Gran Premio d'Ungheria, ci sono stati i primi giri di pista questa mattina con Vettel che ha segnato il miglior tempo, manco a dirlo, precedendo di 130 millesimi il compagno di squadra su Red Bull Mark Webber, quindi terzo Kubica, quindi settimo Alonso, dodicesimo l'altro pilota della Ferrari, Felipe Massa, che ieri ha rivendicato il suo diritto alla vittoria. Ma accendiamo i motori. Sport e motori. Dunque, Massa che rivendica con orgoglio il suo diritto alla vittoria: non farò più sconti a nessuno, non farò più passare nessuno, corro per vincere perché ho diritto di correre per vincere, così dice Massa alla faccia dei giochi di squadra. A questo proposito, e su queste parole, su questo argomento, Dario Ricci ha intervistato Jean Alesi, sentiamo cosa dice. Una macchina secondo me di nuovo molto competitiva, perché Hockenheim è una gara dove una pista dove mette veramente in grande valore l'aspetto della macchina, e avendo una macchina così vincente per fare una doppietta, che è stato il caso a Hockenheim, lì dovremmo aspettarci una macchina molto competitiva. Che cosa ha determinato questa rinascita della Ferrari, che è tornata improvvisamente così competitiva come abbiamo visto proprio ad Hockenheim? Beh, è un gran lavoro dei tecnici, dei piloti che danno delle informazioni giusti e una grande, diciamo, forza tecnica che ha portato di nuovo a fare vincere le rosse. Hockenheim è stata anche la pista della discordia, delle polemiche, no? Abbiamo visto per il sorpasso di Alonso su Massa. A distanza di qualche giorno, qual è la tua opinione? È che le squadre di Formula 1 sono fatte giustamente con due macchine e due piloti, ma per una sola bandiera, che è la squadra. Dunque questa decisione è stata una decisione presa della Ferrari per scelta, diciamo, di un pilota che era Alonso, e avendo più punti dal campionato loro giocano tanto e tutto su di lui. Bernie Ecclestone ha anche detto in settimana: beh, sarebbe ora di rivedere questa regola e di abolirla, no? La regola sugli ordini di squadra, che vieta gli ordini di squadra. Cosa ne pensi? Io penso che sarebbe più giusto, perché comunque abbiamo visto quest'anno, poco Gran Premio fa, anche la Red Bull fare la stessa cosa, ma di una maniera più, diciamo, nascosta, dicendo al pilota di ridurre la velocità per consumo eccessivo. Dunque questa regola in particolare deve, secondo me, sparire. Felipe Massa ha però detto: dovesse ricapitare una situazione come Hockenheim, io vincerei perché non mi sento il secondo pilota della Ferrari. Da questa rivalità come se ne esce, Gian? Ma io questo non ci credo, perché Felipe Massa crede molto nella Ferrari. La Ferrari anche ha avuto la pazienza e la dignità di aspettarlo per vedere se tornassi come era prima, perché ha avuto un incidente veramente grave un anno fa. Dunque Felipe si l'ha fatto perché è un vero pilota della Ferrari. Secondo me, se gli richiedono di fare una cosa del genere, lo farà di nuovo, perché quando lo fa una volta vuol dire che ci crede veramente nella tua squadra. Stiamo parlando di una Ferrari che torna protagonista nel mondiale, ma i rivali non mancano e soprattutto sono tanti quelli che ancora in classifica sono avanti ad Alonso. Questo mondiale con chi va a giocarselo il ferrarista? Ma sai, la Red Bull ha una macchina dall'inizio dell'anno stracompetitiva, perché non c'è stata una gara dove non sono partiti in pole position. Dunque, detto questo, c'è anche la McLaren, c'è ovviamente la Mercedes che sta facendo un gran lavoro per recuperare, ma alla fine il gioco della Ferrari sarà di avere più vincitori diversi, che aiuterà molto a prendere dei punti importanti, soprattutto con Alonso. Avendo la possibilità di scommettere 5 euro, su chi li punteresti in vista dell'Ungaroring, e poi suggeriscici il tuo podio ideale in vista del Gran Premio d'Ungheria? Beh, io direi di nuovo una doppietta Ferrari con un terzo posto di Hamilton. Parola di Gian Alesi, qui al microfono di Dario Ricci. Il momento delle maglie ha intrigato molto i nostri ascoltatori, ne ho di tutti i colori, maglie di Samp, Ajax e Inter crociata. C'è chi, Roberto, preferisce questa Ajax, secondo Roberto da Milano. Beh, insomma, sono tantissimi. Riapriremo, ve lo prometto, il dibattito e la discussione. Però adesso voglio chiudere il programma parlando d'altro, anche perché mi ha raggiunto Flavio Suardi. Ciao Flavio. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Che dopo 11 anni di lavoro qui Radio 24 con me, Gigi Garanzini, eccetera, tutta la compagnia. Per cui siamo all'ultimo giorno di scuola qui a Radio 24, qui ovviamente a Flavio Suardi con tutto l'affetto possibile auguriamo le migliori fortune per un nuovo percorso professionale che sta per intraprendere. Intanto per Pala Spicchi mi molli da solo e non va bene questo. Diciamo che questo non è bello. No, non è bello, però ci sarà modo, dai, di continuare, sì, a lavorare insieme. Sì, sì, sì, in altre vesti. Pala Spicchi invece, io ci sarò, lui va via, io ci sono da settembre, primo venerdì di settembre ricominciamo i venerdì di Pala Spicchi, però oggi non è solo per questo che ti ho chiamato, non solo per farti dare l'addio a questi microfoni, ma per parlare di basket. Assolutamente, assolutamente, perché ci sono tantissime novità che riguardano questo campionato. La prima e fondamentale, secondo me, è una Montepaschi Siena che ha cambiato praticamente tanti giocatori come non aveva mai fatto nel ciclo Pianigiani Minucci. Sono arrivati davvero tanti giocatori nuovi. Uno è un ritorno che è quello di Caukenas, è stato ufficializzato anche Airston dei San Antonio Spurs, che è un ottimo giocatore che andrà a sostituire Sato. Però Siena cambierà moltissimo, come annunciato, come annunciato, e quindi la domanda sarà: Siena sarà ancora inarrivabile come nelle ultime stagioni, oppure ci sarà qualcuno che avrà la possibilità di avvicinarsi un pochettino e comunque cercare di scalfire quello che è stato un dominio praticamente incontrastato almeno in Italia negli ultimi 5 anni. La mia risposta è sì, cioè sarà inarrivabile lo stesso, attendo prove contrarie. Non so la risposta di Jerry De Rosa, voce del basket di Sky. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao. La tua risposta qual è? Con Siena che cambia tutto come l'Inter, eh? L'Inter che si rifà, che si rifà il lifting, eppure sembra inarrivabile. Cosa dici? Non cambiano i manici, come si dice. Bravo. Quindi la mentalità vincente dovrebbe restare la stessa. Bisogna vedere se i nuovi arrivati saranno in grado di recepire così velocemente tutte le nozioni, le notizie che, insomma, che Pianigiani darà anche del vecchio gruppo. Bisogna proprio vedere. Però il mercato è stato sontuoso, devo dire, perché come al solito si è andati a pescare in Europa giocatori con esperienza anche ad altri livelli in Europa. Secondo me McCaleb, il playmaker che ha giocato nel Partizan, è il sostituto ideale di McIntyre. Se ne parlava già qualche mese fa con la nostra banda di Sky, insomma, nel caso McIntyre fosse andato via, McCaleb poteva essere il ricambio ideale, cambiando magari anche un po' tipo di gioco. McCaleb è un po' più contropiedista, veloce, però ha fatto una grandissima stagione, ha portato il Partizan alle Final Four. Sì. Aradoi è una, insomma, è una grande scommessa, ma più neanche tanto una scommessa, visto che è tanto che ha fatto. Michelore è una certezza assoluta, Airston ha esperienza NBA, insomma. E Caukenas che torna dura ancora a scalfire. Sono d'accordo, ma anche perché vedi la differenza, Jerry, che qui si costruisce su una base vincente, altrove invece si tratterebbe di costruire prima la base vincente, cosa che non c'è, quindi. Ma poi già mi vedo Banchi e Storruk all'inizio, visto che Pianigiani non ci sarà, perché è piatto la nazionale, pronti con la Libro, col sussidiario per i nuovi arrivati. Storruk e Banchi sono perfetti, insomma, per dare il benvenuto, sì, tecnicamente parlando e cestisticamente parlando, i nuovi. Basta vedere, io ho sempre in mente Lavrinovic, no? Come è arrivato a Siena e com'era già dopo 2 mesi, insomma, lì Lavrinovic ha capito che se voleva giocare in quel gruppo lì doveva subito imparare tutto e diventare, assumere, acquisire subito la mentalità di Siena, che vuol dire pensare al proprio lavoro quasi 24 ore al giorno, e in 2 mesi è diventato giocatore che adesso, cioè, forse la migliore alla forza d'Europa. Sei d'accordo? Sì, assolutamente, e soprattutto sono però un po' curioso di capire cosa succederà, perché credo che mai come quest'anno ci possa essere qualche spiraglio in più, sinceramente. Siena, secondo me, continua a partire clamorosamente favorita rispetto alle altre, perché è normale che, come dicevi tu, si innestano giocatori su un sistema vincente. È anche vero però che se le altre squadre, che possono essere Milano, Roma, Virtus, Bologna, comunque le squadre, Treviso, che possono cercare di riscattare una stagione magari non clamorosamente brillante, non lo fanno quest'anno e magari non riescono a rendere quest'anno il campionato un po' più competitivo, allora mi domando quando lo possono fare. Ecco, questo è un po' il discorso. Però mi piacerebbe sapere anche da Jerry, visto che ha avuto occasione di vederla, un po' che impressione si è fatto della nazionale, perché Carlo, nazionale sì, ci deve regalare questa famosa famigerata qualificazione. Lunedì si comincia con Israele, da Casa Azzurra, che è stata per elezione a questo giro Bari, che è stata eletta Bari. Che nazionale vedi questa di Pianigiani? Ondivaga come risultati, Jerry. Intanto a Pianigiani ha già perso più partite con la nazionale di quanto ne ha perso con Siena, sì, però questa è una battuta, ovviamente era presumibile. Sì. Però al di là di questa battuta, almeno per quello che ho visto io, cioè non tutte le partite, devo dire quelle in Croazia non le ho viste, però mi sembra molto Bellinelli-Bargnani dipendente, forse più di quanto lo stesso Pianigiani si potesse aspettare. Gli altri sono molto utili, molto importanti, nei momenti buoni della nazionale danno un contributo quasi tutti, in particolare mi sembra di aver visto Mancinelli e Mordente soprattutto, però non ancora con il ruolo di leader che secondo me qualcuno degli esperti non NBA deve assumersi, perché Belinelli e Bargnani sono indubbiamente le nostre armi principali, però ancora non hanno a livello europeo secondo me quella, diciamo, quella malizia, quella esperienza che possa poi... Certo, sono sembrati più integrati, Jerry, è stato sottolineato anche dallo stesso Pianigiani come siano certamente più integrati rispetto al recentissimo passato. Ah sì, no, quello non c'è dubbio, però secondo me abbiamo bisogno di qualche uomo appunto che ha giocato diverse volte l'Eurolega o altre manifestazioni con la nazionale. Belinelli e Bargnani l'hanno già fatto, però non così tante, perché andiamo a affrontare avversari veramente insidiosi, giocatori di grande esperienza a questo livello, e lì poi si gioca davvero un'altra pallacanestro. Le partite in Croazia, secondo me, anche se ripeto non l'ho viste, però l'hanno dimostrato, sono questi giocatori, diciamo quelli dell'ex Jugoslavia o comunque anche dei paesi baltici, perfetti insomma per mettere in difficoltà giocatori molto forti come i nostri, ma ancora non con la necessaria esperienza a livello europeo. Sì. Allora c'è bisogno davvero, immagino, di appunto Mordente, Mancinelli, di quelli che hanno giocato più partite a livello europeo. Sì, sì. Per andare a vincere qualcosa in trasferta, soprattutto, che sarà determinante. Intanto, Jerry, le prime dichiarazioni di tanti, soprattutto di Bargnani e Belinelli, ma non solo, mi pare siano improntate sul fatto che ci sia un grande gruppo, lo spogliatoio è coeso, ci sia un'aria diversa. Insomma, da questo punto di vista, secondo me, possiamo cominciare a stare un filino più tranquilli rispetto al recente passato, visto che forse il gruppo non cementatissimo è stato uno dei nostri problemi nelle ultime uscite della nazionale. Parte, io credo, per aggiungere un altro argomento, Jerry, che l'avvento di Pianigiani abbia messo anche i giocatori con le spalle al muro. Adesso di scuse non ce ne sono più. Prima sì, infatti, poteva essere colpa dell'allenatore, adesso l'allenatore è questo, è il numero uno riconosciuto, dunque tocca a voi. Sì, sì, questo è stato il primo passo fatto da Meneghin. In secondo luogo, secondo me, è avvenuto quel passaggio generazionale che invece nelle ultime uscite era in corso, e questo ha causato un minimo di spaccatura nelle ultime annate, diciamo dai mondiali di Giappone, che comunque non sono andati male, in poi con la terribile esperienza degli europei in Spagna e poi i successivi tentativi di qualificarsi agli europei. Diciamo che lì stava proprio avvenendo questo passaggio generazionale ed è sempre piuttosto complicato, non è un problema che riguarda solo la nostra nazionale. E lì non sono riusciti, diciamo, i componenti dello staff tecnico a dare una mano ai due gruppi a integrarsi nel modo migliore, anche perché era una, diciamo, un momento particolare, nel senso che i giovani comunque erano quelli di cui parlavano tutti, sì, quelli dell'NBA, Gallinari per il poco che si è allenato con l'Italia, i veterani erano quelli che avevano vinto tanto, avevano fatto le fortuna nazionale, però erano un po' in secondo piano, insomma era un momento un po' complicato. Adesso questo passaggio è avvenuto e insomma speriamo di vederne i risultati sul campo. Gli avversari di questo girone come ti sembra? La più pericolosa? Pericolosa, secondo me, bisogna fare una specie di campagna per la quale dobbiamo dimenticarci che abbiamo vinto l'argento alle Olimpiadi di Atene. Sì. E diciamo che in questo girone partiamo tutti alla pari, cioè non siamo più nelle condizioni di poter dire di snobbare le squadre come Israele, come Montenegro, come la Finlandia che ci ha fatto il mazzo l'anno scorso. Certo. A casa nostra. Adesso il punto di partenza per risalire è proprio quello di mettersi umili, anche se abbiamo due giocatori NBA, e dire ogni partita ce la dobbiamo giocare alla morte, perché questo è il nostro livello in questo certo momento, senza contare che Israele lunedì si presenterà con Omri Caspi, che ha giocato una grande stagione in NBA, con Liore Liao che ha vinto il campionato in Spagna, con Cala Boral, con Jotam Halperin che ha giocato nell'Olympiacos fino all'anno scorso, insomma una squadra magari un po' corta, però con gente che sa giocare. Per non parlare del Montenegro, che settimana scorsa ha visto Pekovic farne 39 contro la Bosnia, ma sono sempre 39 fatti da un sì, e noi contro i lunghi facciamo fatica, molta sotto fatica. Sotto canestro abbiamo problemi, ma ha ragione Jerry De Rosa, bisogna mettersi in testa che in questo momento siamo gli ultimi della pista, siamo sull'ultimo gradino e bisogna cominciare a risalire quei gradini uno alla volta, da ultimi. Grazie Jerry, torniamo a parlarne. Grazie a voi. Un abbraccio, grazie a Jerry De Rosa e grazie anche a te, Flavio. Grazie a te, Carlo, per tutti questi anni, grazie a tutti, un abbraccio. Grazie dunque Flavio Suardi, in bocca al lupo, ci avremo modo di rivederci e risentirci, però adesso anche con gli ascoltatori avremo modo di rivederci e risentirci a prestissimo, a lunedì. Per quanto riguarda il weekend resta l'appuntamento domenica con Massimo Di Scienza e i motori alle 16.30 dopo la corsa importantissima all'Hungaroring di Budapest. Noi ci sentiamo invece lunedì alle 2. Grazie anche a Roberto Scaltritti in redazione, buon weekend a tutti.